Friuli nel mondo, 253esima trasmissione dedicata agli emigrati. Voci canore dell'Alto Friuli, gruppo corale del Fogolar di Frauenfeld. Abbiamo già avuto occasione di parlare in una trasmissione di 2 anni or sono del gruppo corale del Fogolar di Frauenfeld in Svizzera, ma oggi vogliamo dedicargli interamente questa trasmissione. Quanto possa la serietà d'intenti e l'amore per il canto corale di questi generosi lavoratori che si propongono in tal modo di coltivare e diffondere, lontani dalla patria, i tradizionali valori dell'anima friulana, lo potrete misurare dalle esecuzioni che fra poco ascolterete e che sono state rilevate da un disco di recente incisione. Costituito 7 anni fa e composto da una 40 di elementi maschili che sacrificano nel corso della settimana varie ore di riposo dopo il quotidiano, duro lavoro, il coro è eseguito dal direttore, armonizzatore maestro Luciano Andreatta e sostenuto dall'appassionato entusiasmo del presidente dello stesso Fogolar, Beppo Mattellone. Conosciuto nei maggiori centri della Svizzera, il coro di Frauenfeld ha raccolto ovunque larga messa di successi e le sue prestazioni sono state clamorosamente accolte anche in varie località del Friuli, ove si appresta a ritornare nel corso delle prossime feste natalizie. I canti che vengono a voi oggi presentati, cari amici emigrati, non sono ancora tanto conosciuti e siamo certi che sarete lieti di ascoltare subito questa originale composizione di De Marzi e Geminiani intitolata La bomba imbriaga. È preghiera veramente il canto di De Marzi che ascolterete ora e che è stato ispirato da una delle tante vittime che la montagna vuole ogni tanto per sé, Signore delle Cime. Thank you. Nell'armonizzazione di Grosselli, cime nevose, casolari, burroni, affetti domestici e amore si fondono nelle note di Val Alpin. Val Alpin, Val Alpin, sull'alte cime, Val Alpin, passa il volo. Vanno in pellegrinaggio per rivedere i posti di lotta e di sanguinosi sacrifici, i combattenti di ieri, ma la baracca che li accolse, forse per lunghi mesi, ora non esiste, né sentono più il canto degli alpini. Ascoltiamo di Wagner e Moser, Ritorno al Monte Grappa. Monte Grappa, tu sei la mia patria. Siamo tornati sul Monte Grappa. Oh. Chiudiamo l'odierna trasmissione con questo irrompente canto di De Marzi e Geminiani, scaturito dal ricordo dei tormentati giorni di prigionia in Russia durante l'ultimo conflitto. Eccovi Josca la Rossa. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.